Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Cos'è un licantropo? Beh, ci siamo, c'è Halloween tra poco. Appunto, ecco, a proposito, oggi il 30, il 30 ottobre c'è Halloween, non riesco a capire la... Quello è quando c'è la luna piena, però, amore mio. Ho capito, ad Halloween se c'è la luna piena... C'è la zucca piena, anzi la zucca vuota. C'è anche la zucca vuota. Che poi mi fa ridere che ci siamo appropriati di una festa che è tipicamente americana, che agli italiani... Ce ne siamo appropriati, probabilmente ci sono degli interessi commerciali dietro e l'abbiamo visto un po' ovunque, perché bisogna vendere i vestitini ai bambini, bisogna vendere, non so, i dolcetti... Non so, tutte le però, vogliamo sottolineare che in tutto ciò probabilmente uno è disattento e sottovaluta l'aspetto del cagnolino di casa o del gatto di casa che si spaventa, perché anche a Halloween qualche razzo parte, qualche scoppio c'è. Sì, c'è una battaglia forte, no? Ne parleremo poi a Capodanno, di botte di Capodanno, e per fortuna dei comuni che hanno vietato i botte di Capodanno dovrebbero vietare anche i botti ad Halloween, se ce ne sono. Ma cosa forse ancora più strana, sono quelle persone che, siccome arriva Halloween, decidono di travestire anche i loro cani, da Superman, Batman, che bella idea, cane ragno, da Frankenstein e da tutte cose orrende. Io mi auguro che non si faccia, nel senso che chi ha un minimo di sale in zucca non è una bambola, il cagnolino, il cane grande o piccolo che sia, quindi mascherarlo. Vabbè, ho capito, ma se uno vuole divertirsi mascherando il proprio cane? Ma si mascherasse lui o mascherasse il marito, la moglie o i figli? A quello gli piace vedere, ma scusa, il cane. Ma scusa, ma se un bambino non ha voglia di mettersi la maschera, che cacchio fa, gliela metti uguale? Deve metterla per forza per far contento il genitore, Rosita. È così il cane, deve, cioè, non ti piace? Fa niente, tu devi metterti il vestitino di Superman, dell'uomo ragno. E io ti perché sparo. Sei divertente. Perché è divertente così. No, diamo invece un servizio. Mi aiutate, ha detto la stronzata giornaliera. Ecco, appunto, bravo. Esatto, ha detto la stronzata giornaliera. No, allora, no. Aiutiamo le persone a capire questa roba qua. Allora, i rischi bravo, collegati bravo a questa cosa qua. Uno è la banalizzazione, cioè il cane diventa una roba che è uno strumento per divertirsi, che cacchio me ne frega del cane, di quello che lui prova, io lo vesto così, eccetera, esatto, eccetera. Alcune persone dicono, ma l'egoismo. Il cane si diverte. Beh, io quando vedo le fotografie dei cani vestiti a maschera, vedo dei cani con una faccia rassegnata. Cioè della serie, ecco, mi tocca fare anche il questo cretino per divertire questo imbecille del mio padrone. E vabbè, ma parlatecene, eh? Cioè, se qualcuno di voi ci sta ascoltando, ci scriva a chiedimi se sono felice @radio24.it, in modo che possiamo darvi voce. Cioè, davvero il vostro cane è felice travestito a maschera? Soprattutto ad da Halloween? Cosa, quali segnali vi dà il vostro cane perché voi siete così sicuri che sia felice? Perché, visto che si può leggere, si possono leggere le espressioni, a ti maschero, eh? A me? Sì. Ma io non voglio. No, è appunto. Io ho smesso quando avevo 7-8 anni di vestirmi a maschera. Sì, l'ho vista che eri vestito da D'Artagnan. Cosa cacchio eri vestito? Un tuo fratello. Ero vestito da D'Artagnan. Tra l'altro ogni anno si ripeteva sempre lo stesso vestito. Amore. Perché sai, all'epoca si usava così. Oggi c'è un vestito per Halloween, una carnevale, poi la volta dopo un'altra. C'è gente che è vestita da Halloween tutto l'anno, guarda. Tutto l'anno si vestono come se fosse Halloween e sono convinti di essere eleganti. Di allora, come si fa a riconoscere se un cane è a disagio? Per esempio, tu lo travesti con questa roba qua, lo vesti a maschera, il cane non si muove, si immobilizza, non vuole camminare. Allora qualcuno potrebbe dire, magari si vergogna a farsi vedere così. Ma secondo me si vergogna del padrone. No, però il fatto che un cane si immobilizzi quando tu gli metti addosso una cosa del genere è segno di un disagio, anche di un disagio forte. Lo capisci dall'espressione del volto, che magari non è così serena, perché i cani hanno un volto. È stata fatta una ricerca, lo ricordiamo, l'università non me la ricordo, possiamo dire la prossima volta, però è stata fatta una ricerca sulle espressioni del volto del cane, così come nelle persone, nella ricerca che aveva fatto Paul Ekman, le persone, gli esseri umani in tutto il pianeta esprimono emozioni come tristezza, disgusto, rabbia, sorpresa, via dicendo, nello stesso modo, e così usano fare anche i cani. Quindi le emozioni, il modo in cui loro si sentono, glielo leggi in faccia e poi lo vedi dalla postura. Se la postura è rannicchiata, un po' fantoziana, diciamo così, per far capire a chi ci sta ascoltando, significa che il cane è a disagio. Ecco, Ecco, se voi vedete una cosa del genere, al di là del travestimento, no, a maschera, ma in qualsiasi altra situazione, sappiate che il vostro cane è a disagio. E non è come ho letto un pirla l'altro giorno su Twitter, dice questo è antropomorfizzare. Al contrario, quando tu riconosci al cane le proprie emozioni, le sue emozioni, e sono anche quelle emozioni di tristezza, gioia e via dicendo, tu stai riconoscendo il suo status. Quindi non stai antropomorfizzando, stai riconoscendo a lui la sua parte animale. Esatto. Oh, adesso, a parte le battute e gli scherzi che abbiamo fatto all'inizio, mi raccomando, ragazzi, perché veramente, cioè, se ci si può divertire ad Halloween ugualmente senza coinvolgere altri esseri viventi e senzienti nei nostri giochi quando loro non vogliono, perché sarebbe veramente come costringere un figlio a fare una cosa che non ha voglia, un compagno o una compagna, quindi rispetto a 360 gradi. Detto ciò, hai comprato la zucca tu? Non ancora. Purtroppo, cioè, ci siamo, ma non ho ancora comprato la zucca. Perché volevo svuotarla, amore. Prenderne una molto grossa e mettersela in testa. Come un casco, diciamo. Così mi divertirò. Sarò tipo pilota di aeroplani. Ma che c'entra pilota di aeroplani con una zucca vuota in testa? Come un casco, me lo porto sul motorino, me lo porto sullo skateboard. Posso fare una foto, poi la mettiamo sui social così vedono tutti. Non vedono l'ora di vedermi con... Sicuro non vedono l'ora, sei tu che ti vergogni a farlo e che assumi quella postura come il cane bastonato messo così. Allora se assumo gombito. Quella postura non mi devi mettere la zucca in testa, ma scusa. Tu però, ma mettitela te la zucca in testa. Io c'ho già una testa di zucca. Ragazzi, detto ciò, scriveteci, perché noi, come potete vedere, sentire, fare, dire, baciare, lettere e testamento, vi rispondiamo. Ovviamente vi coinvolgiamo in radio. Chiedimi se sono felice, @24.it. E ora una breve pausa e poi si ricontinua con le ciance. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Oh, io sono felicissima. Oggi abbiamo una persona che mi fa veramente tanto piacere intervistare. Anche a me, anche a me. Nonostante sia parte della concorrenza. Va. È una speaker radiofonica come noi. Adesso parte la sigla, poi vi diciamo di chi stiamo parlando. Ebbene, spero di pronunciarlo bene. Abbiamo con noi Chris Reichters. Ecco qui la mia pronuncia perfetta. Scusami, Chris. Ma... Eccomi qua. Sì, basta mettere un po' di... Ecco. No, Chris, allora, Reichert. Adesso che avete sentito la sua voce, probabilmente l'avrete riconosciuta. Chris ha lavorato... È una speaker di Radio Monte Carlo. È una speaker di Radio Monte Carlo e quindi... sì, però prima non lavoravi in un'altra radio anche. Sì, lavoravo per tantissimi anni in un'altra radio. È una vita che lavora in radio. Radio Monte Carlo. Va bene. Sei una delle voci più riconoscibili e più famose d'Italia. Ma addirittura, non saprei. Però comunque l'accento un po'... inganna, nel senso che tutti riconoscono poi un accento straniero alla fine. Sì, infatti, però è bello perché sei molto, molto dolce, molto femminile. Senti, però stiamo intervistando Chris perché ha realizzato un'iniziativa molto, molto interessante a favore degli animali, quindi è perfettamente, cioè la troviamo un'alleata. Tra l'altro era con noi proprio l'anno scorso a inaugurare i 10 anni di Save the Dogs, questa onlus che fa cose incredibile. Sì, io sono rimasta colpita da questo articolo che è uscito sul web con il titolo La mia scelta di indossare la moda cruelty free, perché tu ti batti moltissimo per tutto ciò che è pelle, pellicce, pelle di serpenti per le scarpe, le borsette, giustamente. Assolutamente sì. Ma innanzitutto mi ha fatto moltissimo piacere la vostra telefonata, proprio perché quando c'è una lotta come questa in mezzo, diventiamo tutti parte della stessa squadra. Assolutamente. Ci unisce. Esatto. Infatti noi ci siamo già conosciuti lì a Save the Dogs quando infatti hanno festeggiato, però la mia lotta, diciamo, è molto, cioè, molto largo. Perché tu sei una testimonial di PETA Foundation, no? PETA Foundation. Assolutamente, sì, collaboro moltissimo con loro e mi fa sempre piacere quando mi chiedono di fare qualcosa perché io sono sempre presente, ero in prima fila a tante proteste, quelle per chiudere magari le fabbriche che producono pellicce, oppure contro la sperimentazione degli animali. Certo. Poi tra l'altro ho creato, prodotto e ho condotto una serie web che si chiama Save the Animals. Sì. Una cosa che mi ha praticamente distrutto, perché vedendo tutti i filmati e dovendo selezionare le cose più brutali proprio per sensibilizzare il pubblico mi ha veramente distrutto. Però no, lo guarda, no, per non una buona causa. Tu sei bravissima, perché ti dico la verità, io non riesco più a vederli, mi sento proprio male, quindi io ne parlo, sì. li posto su tutti i miei social, ma io non riesco proprio a vederli, mi sento male, quindi posso capire che cosa hai provato tu nel guardare certe, perché è inimmaginabile come l'uomo riesca a compiere certe azioni. Mi ricordo una volta che qualcuno mi ha scritto un commento, ha detto: no, non puoi far vedere queste cose, siamo molto sensibili. Ed era quello che mi ha colpito, perché io dicevo: appunto, noi siamo ipersensibili. Se la gente magari diciamo medio, cioè, sì, che non gestisce, cioè, che non fa la lotta, se è sensibile, non fa la lotta, noi? Perché esatto, non usa la sua sensibilità, cioè se non la metti, sì, a contatto con questa, esatto, roba, come fa a prendere una posizione? Non ha conoscenza. Sì, non solo, noi abbiamo intervistato anche un artista, un pittore spagnolo che si chiama Roger Olmos, che è riuscito a fare questo libro che ti potrebbe interessare tanto, che si intitola Senza parole, di sole immagini, perché lui è un vegano attento ai bisogni degli animali esattamente come noi, e lui ha voluto fare una cosa proprio per chi non aveva il coraggio di guardare certe immagini, e soprattutto per avvicinare i bambini ad avere attenzione e come si dice, rispetto per il mondo animale. Perché Coraggio, dicevamo in questi giorni, se tu chiedi a un bambino che cos'è un pollo, ti dice che è quello che sta al supermercato già bello impacchettato nel cellophane, il petto di pollo. Non associa che prima era un animale che dovrebbe, sì, essere, sì, libero nel, bambini, cortile. Ma prima, quello lì, il pollo era una gallina, era una gallina, senti, cioè non si rendono conto, sì, ancora. Sì, no, infatti ecco perché magari ci sono nomi diversi che danno ai cibi che non assomigliano proprio al nome dell'animale a volte, perché per non far capire ai bimbi, però io voglio, cioè il mio bimbo ha 3 anni, io voglio che lui crescendo sa che cosa sta mangiando, sa che cioè io non gli ho mai dato la mucca perché è tra i miei animali più amati del mondo, quindi certe cose non riesco a fare, però ogni tanto un po' di carne biologica glielo do, certo, nella crescita. No, ma su questo però poi è difficile, perché io voglio che lui sia consapevole su ciò che sta mangiando e magari cresce facendo una scelta mirata, sì, non perché è quello che si trova di fronte alla sua faccia. No, certo. Senti, invece, tornando alla moda, tu hai, sì, praticamente sfilato. Io vedo qua quasi una bellissima foto con, sì, il Duomo sullo sfondo. Sì, esatto, in poi ci Duomo sei tu Milano e altre due bellissime ragazze con indosso delle pellicce vegane, no? Delle pellicce cruelty free. Esatto. E la gente, quando sente la parola vegana, a volte spinge via, cioè non sì, capisco. È vero. È semplicemente una moda, cioè un abbigliamento che non utilizza derivanti degli animali. Sì, certo. Non c'è la pelle, non c'è pellice, non c'è nessun sfruttamento. Anche la lana è uno sfruttamento bestiale, ma davvero orrificante, si può dire, non credo. Sì, ma sì, comunque orribile, orribile, comunque, si dice. Orribile. Lì per lì Pita ha fatto questa manifestazione in cui abbiamo indossato capi in cui non c'era nessun sfruttamento degli animali, e cercando di sensibilizzare la gente per l'inizio della settimana della moda sulla moda vegan, sì, animal friendly, cioè, sì, cruelty free, insomma, quindi, sì, io spero che siamo stati bravi a proprio a spargere questa voce, perché è veramente una cosa facile, basta essere un po' più attenti di non magari comprare un capo che non si sa se è veramente vera pellice o non, perché io incontro tantissimi amici che indossano qualcosa con magari un piccolo accessorio in pellice. Io dico: ma ragazzi, ma come siamo messi? Cioè, cos'è? È pellice vera? Oh, ma no, ma non sarà mai pellice vera. Sentilo, e io lo sento e dico: è pellice vera. Cioè, dovete guardare ciò che state guardando, perché per legge deve essere scritto sull'etichetta almeno che cos'è. Sì, solo che noi penso che abbiamo fatto una puntata dove raccontavamo i nomi delle etichette capestri, in modo che tu non sai che cosa siano. Ci sono dei nomi assurdi che non hanno un senso e che nascondono dietro questo. Però nell'articolo, ecco, leggo che ci sono personaggi come Stella McCartney, che per esempio è come in Italia Giorgio Armani poco tempo fa ha definitivamente comunicato che non avrebbe mai più usato nessun prodotto d'abbigliamento animale, né pellicce, né pelli, né piume. Né pelle? Bene, non lo sapevo. No, hanno fatto una comunicazione proprio generale dove ha detto: non useremo mai più prodotti animali per i nostri... Sì. Ce ne sono tanti che si stanno avvicinando, anche la Elisabetta Franchi, che a me piace moltissimo, si sta avvicinando, è già da tanti anni che ha proprio tolto via tutte le pellicce vere, adesso si inizia a fare tanti capi in eco pelle. Quindi... Anche perché poi adesso oggettivamente io ti assicuro, ma sai che a volte chiedo, mi dicono no, è ecopelle, è uguale. Sì. C'è una differenza, una non è fatta con il sangue di un essere vivente, che è fondamentale, ma l'aspetto estetico, è confortevole, è di calore, di look, è identico, è veramente identico. Nella questione della pelle, tante persone pensano che sono gli scarti, dopo che l'animale è stato macellato per la sua carne, utilizzano gli scarti della pelle, ma non è così purtroppo, anzi è la pelle che costa di meno, che lo stanno fabbricando in Bangladesh, di fianco all'India dove la mucca è sacra, mandano queste mucche in Bangladesh per essere scoiati ancora coscienti, ragazzi, ma soltanto per la loro pelle. Oddio. Quindi e quindi queste sono le realtà che purtroppo, cioè, mi dispiace anche a dirli perché è bruttissimo sentirle dire, però bisogna dirli perché è la verità. Sì, è vero. Se no facciamo come gli struzzi, no? Sì. Cioè, esatto. È una metafora che mettiamo sotto la sabbia. Come gli strunzi. Senti, Chris, allora noi ti seguiremo, come si dice, siamo felicissimi che tu abbia fatto questo. Sì, e se ci sono tra l'altro altre iniziative che fai simili a queste, avvisaci anche prima e usaci come megafono. Assolutamente sì, già vi dico che questo venerdì passato, due venerdì fa, scusate, Pita è stato a questi Stevie Awards a Roma a fare una manifestazione contro questa ditta che è stato premiato per aver utilizzato il patè d'oca. Il foie gras, sì, il famoso foie gras. Sì. Che bestiale. No, scusami, è stata premiata una ditta per aver utilizzato il foie gras? Sì, lo fanno migliore dell'Europa. Ah, ok. Sì, e quindi Peta è andata lì a manifestare contro. Ha fatto bene. Infatti, vabbè, allora mano a mano adesso ci tieni al corrente, tu hai il mio numero, noi abbiamo il tuo, e quindi quando c'è bisogno di unire le forze per i diritti degli animali, sappi noi che c'hai altri siamo. Due nuovi alleati e tutti quelli che sì, grandiosi. Va bene. Fantastica. Senti, grazie Chris, buon lavoro e ti sentiamo dove, a che ora tu sei a Radio Monte Carlo di solito? Adesso sono l'esperta della musica e sto facendo tutte le interviste per tutti gli artisti che passano per Milano e quindi mi sentirete in diversi momenti. Bene. Benissimo. Benissimo. Okay. Grazie, buon lavoro, un abbraccio grande. Grazie, grazie Chris. Anche a voi. Ciao. Buon lavoro anche a voi. Ciao. Grazie, ciao. Oh, hai visto che qui non si finisce mai di incontrare persone... Ma davvero. Poi tra l'altro quello che diceva lei, cioè il fatto di andare oltre le proprie, come posso dire, le proprie convenienze, no? Cioè lei è di un'altra radio, lavora in un'altra radio, ci sono... tutto il nostro lavoro deve essere basato sull'etica, è da lì che si deve diramare il resto, sì, e non sull'economia. Comunque, indipendentemente da questo, a me piace pensare che siamo colleghi dello stesso lavoro, ma che ci intervistiamo da una radio all'altra, perché no? Tanto non toglie niente, anzi, casomai aggiunge. Detto ciò, sono contenta perché io ho un sentore positivo, che più andiamo avanti e più piano piano le persone stanno veramente prendendo un po' più di consapevolezza. Senti, a proposito di moda, mi risulta che ci sia stato un signore che ha trasformato un gatto artista in una borsa. Un gatto in una borsa. Cioè qui ho una foto raccapricciante. Praticamente dove si un vede gatto già morto, lui l'ha preso, ci ha fatto una borsetta, una pochettina e ci ha incollato sopra pure la testa che guarda in alto verso la persona che la indossa. Cioè, ma per quale motivo ha fatto sta roba qua? Perché gli piaceva proprio sta roba o per una provocazione, cos'è? Non credo che da parte sua nascesse come una provocazione, però forse tu ti puoi rifare a quella volta che non mi ricordo chi c'era, questa ragazza, questa donna che ha fatto una provocazione. Sì, brava, ne parlavamo prima ai microfoni spenti, non ricordo bene il nome di questa artista, però lei cosa faceva, per esempio, è un artista. Una delle sue performance è stata mettere il collare ad un cane morto e poi andarsene in giro trascinandoselo. E molta gente diceva, ma questa è una stronza, ma che cosa sta facendo, eccetera, eccetera. E lei dice, siete un branco di ipocriti, perché voi mi scrivete su Facebook i vostri commenti contro quello che faccio io, mentre siete seduti su un divano di pelle, mentre vi mangiate un hamburger, e allora siete degli ipocriti. Questa ragione. E su questa ragione. Quindi il suo intento pare fosse quello di provocare in modo forte il lettore, scioccarlo, perché lei dice siamo tutti in un lento annebbiamento e morte del cervello. Questo ha fatto bene, sono d'accordo. Ha voluto richiamare l'attenzione su queste cose qui. Adesso richiamiamo l'attenzione su un break e poi ci si ritrova. A dopo. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci qua, sempre presenti, sempre attenti. Eccoci presenti. Allora, quindi, in questa puntata del 30 ottobre, ricordiamo. La moglie ha preso il 30 ottobre. Una delle poche volte nella sua vita che si ricorda una data. No, ma quello, vabbè. Comunque, sì, infatti, la dico. Però, domenica. Allora, chiedimi se sono felice, chiocciola24.it. Andate ad ascoltare i nostri podcast sul sito di Assolutamente. No, vi volevo dire che adesso parliamo giusto appunto con una nostra ascoltatrice che ci ha tampinato più di una volta una mail che ci ha scritto di recente. No, ma solleva una cosa. Allora, questa mail solleva uno dei punti cardine, secondo me, pratici, che poi sul quale poi si costruisce un po' tutta la filosofia di vita del cane. Certo. Allora, sentiamo se ci abbiamo già in linea Michela. Sì, ciao. Eccoti, ciao Michela. Ciao Michela. Tu da dove che ci chiami? Provincia di Bologna. Ah, vedi? Di Bologna. Non ha tanto l'accento, beh. No, perché io sono toscana. Hai visto? Vedi, sei toscana. No, ma non ha nessuno dei due accenti. Nessuno dei due. No, infatti, sono ibrida, infatti, sono un'immigrata. Allora, a Michela è successa una cosa particolare. Cioè, ha cercato di adottare un cane, però gli hanno detto no, perché tu poi te lo metti in giardino, giusto? Più o meno esatto. È stata questa la cosa. Che mi sembra un po' un controsenso. In che senso? Cioè, teoricamente un giardino dovrebbe essere un valore aggiunto per chi prende un cane. Sì, però facciamoci raccontare. Cioè, loro hanno pensato che tu l'avessi lasciato da solo in giardino, l'avresti lasciato lì e basta, penso. Penso anch'io, sì. Io infatti vi ho scritto perché qualche domenica fa, Angelo, hai fatto un po' un attacco verso i cani che vengono tenuti in giardino. Ah, sì, giusto. Facendo riferimento a un Labrador che viene tenuto sempre in giardino. Sì. Ecco, secondo me i cani sì, in mi giardino bene. Ci stanno bene. Ah, no? Ok. Beh, insomma, dipende. Quello lì, il suo giardino praticamente è uno scivolo di cemento ed è sempre da solo lì, quindi in giardino il cane sta bene se non è lasciato da solo. Questa è per esempio la prima regola, perché il cane è un animale sociale, ha un bisogno molto forte di sentirsi parte di un gruppo, e quando tu lo lasci in giardino effettivamente parte di un gruppo non ci si sente. Quindi non è il giardino in sé che è la cosa negativa, è l'uso che se ne fa del giardino, cioè è come ci si interfaccia, ci si relaziona all'animale. No, è una buona cosa quella di Michela, perché ci permette di approfondirlo un po', certo, questo argomento, perché effettivamente non vorrei ridurlo a qualcosa di così semplicistico come cane in giardino, no, cane in casa, sì, punto. Certo. Perché tu, per esempio, nella tua mail ci dici che tu hai più di un cane. Sì, io ho due cani. Tu hai due cani che vivono in giardino. Loro vivono in giardino sempre o entrano in casa quando tu torni dal lavoro? No, in casa loro non ci possono entrare perché il mio compagno non li vuole in casa. Ecco, vedi. Allora bisogna cambiare il compagno. È facile, Michela. Sembra molto più difficile a dirsi, sembra molto più difficile a farsi che a dirsi, ma ti assicuro che è molto più facile farlo. Ma va che, al contrario di quello che pensa Rosita, per me l'amore va esteso anche agli esseri umani, quindi lei non si fa molti problemi. No, ma che c'entra quando... Sì, io sono un po' più cattiva con gli esseri umani, però adesso, a parte le battute, a dirti la verità. Allora, facciamo una cosa, andiamo per gradi. Raccontaci com'è la tua organizzazione personale. Beh, io ho questa casa con giardino, è una casa su due livelli, una villetta singola. Nel livello di sotto uso taverna, quindi c'è un portico, le cucce sono sotto il portico, sono in un posto riparato. In taverna ci andiamo e passiamo del tempo con i cani, per esempio quando piove, facciamo dei lavori, non so, io ho due bimbi, quindi faccio giocare i bimbi che lanciano le crocchette ai cani e i cani le cercano sotto il divano. Cioè, che cani hai, scusami Michela? Sono due meticci adottati dal canile, oltretutto l'ultima l'ho adottata in agosto, è ancora in affido temporaneo, l'ho adottato lei proprio perché mi è stato rifiutato questo cucciolo, perché questo cucciolo che veniva dalle staffette non mi era stato affidato perché ho dichiarato la verità. Diciamo che probabilmente per questo cucciolo c'erano state altre, immagino, richieste da parte di chi invece il cane non avrebbe tenuto in giardino, e quindi la preferenza di, se questa è stata la motivazione, la preferenza di dire no, preferisco che uno si prenda il cane che poi ci viva anche assieme, io la condivido, è una mia opinione personale naturalmente. Se invece parliamo di un canile lager o di quei canili che hanno pochissime risorse, pochissimo personale, il cane sta tutto il giorno in un box, piscia, caga, dorme, mangia e resta lì tutto il tempo, io dico no. Allora molto meglio che quel cane esca da quel canile e vada anche anche con la Michela. Michela. Ma beh, certamente. No, vabbè, ma con la Michela non è che sei una cosa così devastante, cioè, ci sono, tu Michela. Da quello che tu mi racconti, tu i cani... Scelta. Oh. Sono una scelta B perché non lo tengo a dormire in casa. Cioè, secondo me il cane sta meglio se non dorme in casa. È proprio una questione di, cioè, allora, tu dici, guarda, se in casa non sta il cane sta, cioè, sta meglio proprio in giardino, no? A tuo avviso. Sì, sì. Ma questo, cioè, deve... uno dei due meticci è un meticcio di Segugio, per esempio, no? Sì. Ha il pelo raso, zero sottopelo, quindi è anche un cane abbastanza freddoloso. Se io lo faccio dormire tutto l'inverno in casa, dove comunque anche se tengo il riscaldamento basso ho quei 19 gradi, no? Sì. Usciamo fuori, ci sono 0 gradi, cosa faccio? Gli metto il cappottino. Cioè, la preoccupazione è quella, tu dici, siccome in casa fa più caldo. Sì, cioè, lo sbalzo di temperatura quando esce. Beh, gli metterà il cappottino. Beh, io non vedo molto il problema, nel senso che conosco molti cani a pelo raso. Il mio è uno di questi, è un pelo raso, vive in casa, quando usciamo non è che ha freddo, perché poi però ci si no muove. Aspetta Angelo, però lui vive in casa e quando andiamo fuori fa le passeggiate, quindi si muove. Se lei lo fa stare un po' in casa e poi sta tanto fuori fermo in giardino, a quel punto lo sbalzo lo sentirebbe sì, di più. Bisogna fare cioè tenerlo chiuso in casa mentre sono a lavorare, come se lo mettessi in off. Come se fosse un videoregistratore, lo metto un attimo in pausa perché sono io a lavorare. E dopo... Beh, non è che sei. Non pensare che guarda... il cane in giardino non sia in off. Avrà qualcosina in più da fare, forse. Come per esempio, non so, andare a fare, tu scrivi nella mail, andare a fare pipì, a mangiare un pochino l'erba. Scusa, eccetera, ti voglio eccetera. Fare una domanda. Ma in casa tu puoi mettere anche il Kong, gli puoi mettere l'ossetto, si possono fare anche cose del genere. Volevo capire, ma quando tu torni, i cani dove aspettano solitamente? Dove li trovi? Se c'è il sole loro dormono in terrazzo perché il sole riscalda il pavimento, quindi loro hanno gusto a stare anche in alto, è un posto più di vedetta. Se non se c'è piove, il sole sono in cuccia, dipende, se c'è è caldo tipo in agosto stanno all'ombra di un albero, loro hanno la possibilità di scegliere diverse posizioni. Allora ti dico, allora per far capire anche chi ci sta ascoltando, credo poi Angelo mi dirà se ho detto giusto oppure no, per sapere qual è la cosa più giusta per il cane, allora facciamo finta che tu non hai problema dentro o fuori, che tu hai la tua casa col giardino e prendi dei cani, li salvi da un canile, li adotti da un canile e loro hanno questo spazio dentro e fuori. Per capire qual è la cosa giusta per il cane bisogna lasciare libero il cane di decidere. Se tu però già tu nella tua vita personale hai delle regole, perché per esempio come mi hai detto prima il compagno non li vuole, a quel punto diventa lo spazio loro li si riduce, nel tuo caso si riduce al giardino, nel caso di una persona che non ha il giardino magari si riduce a una taverna, per chi non ha una taverna magari li si riduce in una stanza, è il fatto di creare delle barriere che fa sì che non ci sia la totale libertà, non so se riesco a farti capire qual è il principio, capito? Poi nessuno va a dire, cioè se tu proprio vuoi sapere qual è la condizione giusta del cane è ragionare in questo modo, se poi uno però dice io comunque intanto li adotto, gli do un calore affettivo, giocano con i miei bambini, ci sono io che torno la sera è già un bel regalo che uno lì si fa, capito Michela? Cioè la cosa che diciamo noi dei giardini è un'altra cosa, perché noi vediamo purtroppo anche pochi giorni fa in Brianza mamma e cucciolo mollati in un cortile, peggio ancora di una ditta, mollati lì con una cuccia scarcinata, con un cancello che guardano fuori, abbaiano la gente, soli, mollati a se stessi, vedranno gli operai che vanno lì da lunedì al venerdì, sabato e domenica non vedono un'anima, e questo è sbagliato. Ma anche chi ha la casa li lascia sempre fuori, e 99 volte su 100 li vedi seduti sullo zerbino d'entrata dove entrano i padroni di casa. Ad aspettare. Beh, se passate davanti a casa mia in questo momento, probabilmente i cani sono lì sullo zerbino e vi potrebbero fare pena. Poi in realtà io con i miei cani li porto agli stage degli educatori cinofili, faccio educazione con i bambini. Sì, tu hai già, certo, è una condizione. Ho fatto anche un percorso, ho fatto 2 anni in protezione civile, siamo andati a fare delle dimostrazioni nelle scuole. Cioè, ma guarda, tu hai già una condizione diversa, no? Rispetto ai cani che... Certo. Il cane di cui ho parlato in quella puntata lì è un cane che vive perennemente in giardino. Abbandonato, esce di rado. Anche quando i proprietari sono in casa, lui sta in questo giardino dove non c'è erba, perché poi fondamentalmente sono mattoni e cemento, ed è un cane molto triste da questo punto di vista, che approfitta del passaggio di ogni persona per scodinzolare un po' e ricevere un po' e avere un po' di interazione. Allora, in quel caso lì, le persone, il cane, non dovrebbero proprio prenderlo, non dovrebbero adottarlo, un cane, soprattutto poi in questo caso è un cane addirittura di razza, quindi anche pagato e comprato, non è neanche il cane che salvi dal canile da una situazione disastrosa, perché fin quando fosse così, rispetto ad un canile lager, questa situazione andrebbe anche meglio. Però quello su cui voglio portare la tua attenzione, quella anche di chi ci sta ascoltando, è che le scelte devono essere sempre misurate in base a diversi elementi, quindi non prendere in considerazione soltanto i bisogni fisiologici, no? Quindi caldo e freddo, se il cane ha spazio per muoversi o se il cane mangia una cosa piuttosto che un'altra, ma anche il fatto che il cane è un animale sociale e ha una cognitività molto forte. Per cui il fatto che sia un animale sociale lo spinge a ricercare il bisogno, cioè a soddisfare il bisogno di sentirsi parte di un gruppo. Soprattutto se è da solo, nel tuo caso lui almeno ha un altro cane, ma se è da solo in giardino purtroppo non ci sta bene. Allora, appena possibile, quando uno torna dal lavoro, se vuole proprio il cane in giardino, che comunque è pericoloso tenere, no? Per via di tante cose che purtroppo succedono, no? I veleni, io ho tanti clienti che purtroppo hanno perso il cane in questo modo. Però voglio tenere il cane in giardino mentre sono al lavoro, benissimo, quando rientro a casa lo faccio sentire parte del gruppo, quindi sta con noi. Quando, è una questione anche di tempo, cioè se io leggo il giornale mentre sto su una poltrona e il cane sta lì che dorme ai miei piedi, si struttura un legame che altrimenti non si struttura quando il cane vive in giardino. Mi spiego? I miei cani, per esempio, per darti un esempio alternativo, il giardino ce l'hanno, io lascio le porte aperte, loro si fanno un giro, ma poi stanno vicino a noi. Loro hanno la possibilità di scegliere, no? Quindi queste sono le riflessioni, le considerazioni che dobbiamo fare. Dalla tua email io non so qual è il caso di questo cane, perché se io ho diverse scelte da quel punto di vista, anch'io propenderei per uno che mi dice mi tengo il cane con me, gli offro la possibilità di stare più tempo con me. Se invece questo non c'è e il cane è un cane che vive in un box di cemento, allora è meglio che stia nel tuo giardino con il tuo cane e accudito come tu sai fare, perché non mi sembra una situazione così drammatica, anzi mi sembra che siano cani felici anche nel tuo caso. Certo, per me il cane è un essere naturale, no? Nel nostro caso, proprio nella mia famiglia, il cane è un animale che ci porta nella natura, perché lui vive nella natura. E la sua natura è stare con l'essere umano, il cane non è più un lupo, la sua natura è stare con l'essere umano. Michela, ti telefoniamo alla prossima puntata, guarda, perché sì, il tempo perché, è finito. Allora Michela, guarda, siccome è molto interessante invece avere un confronto con te, perché tu rappresenti un po' quelli che ci stanno ascoltando, se a te fa piacere, ci sentiamo un'altra volta, te lo dirò prima, così se vuoi possiamo continuare la chiacchiera. Certo, assolutamente. Intanto grazie di essere stata con noi oggi. Grazie Michela, ci sentiamo tra poco dopo il traffico. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Rieccoci adesso qui, domenica 30 di ottobre. Chiedimi se sono felice, @radio24.it, scriveteci tutto quello che volete. Dice, ma che ce lo dice a fare Angelo, che il 30 ottobre che ti stavamo ascoltando poco fa, ma io spesso mi dimentico la data odierna, quindi ogni tanto... Ma tanto l'hai detto adesso, riusciamo dopo dalla radio, ti chiedo oggi che giorno è, tu non te lo ricordi? Sì, vabbè, adesso, non è che quella senza memoria sei te, voglio ricordarti. Comunque, in questa domenica è arrivato il momento, no, in cui ci viene l'acquolina in bocca e vogliamo preparare qualcosa. Quest'ora. E allora abbiamo la nostra fantastica rubrica Piatti e ciotole. E qui con noi Mara di Noia. Mara, hai sentito che voce da uomo così, da Mr. Grey che ma ci aveva Angelo. Che stai dicendo, Mr. Grey? Ciao a tutti. Ciao Maretta. Ma passiamo alla prossima ricetta. Ecco, punto. Bello. Cosa ci dici oggi? Cosa possiamo cucinare, Mara? Allora, oggi vi propongo le crocchette di miglio e semi. Uh-huh. È una ricetta di quelle che piacciono a me, quindi molto semplice, con ingredienti vegetali, perché io amo la cucina vegetale. Brava, allora, anch'io. Ci occorrono 200 grammi di farina di mais, quella fine, che si chiama fioretto, 150 grammi di miglio già lessato in acqua, uh-huh. 70 grammi di carote, 50 grammi di amido di mais, 40 grammi di olio extravergine di oliva, 30 grammi di semi di zucca e girasole, 25 grammi di prezzemolo tritato e il nostro famoso pizzichino di sale. Dobbiamo lavare, tagliare le verdure, tagliarle in modo grossolano, metterle in un mixer e tritare con olio il pizzico di sale. Versiamo il composto in una ciotola, uniamo il miglio lessato e già scolato, togliamo l'acqua in eccesso, l'amido di mais, il prezzemolo e i semi. Dobbiamo semplicemente impastare con le mani il tutto, aggiustare di sale se occorre, ma io consiglio sempre di metterne poco, formare delle palline grandi come una noce e poi schiacciare per dare la forma delle crocchette. Passarle nella farina di mais e disporle su una teglia coperta con carta da forno. Allora, queste polpette sono buonissime in padella, ma per bambini piccoli e per i nostri animali è meglio cuocerle in forno a 180 gradi per circa 20 minuti fino a che sono dorate. Per il piatto dei nostri commensali umani possiamo servirle con una salsa di yogurt di soia o con delle verdure saltate di stagione, oppure semplicemente aspettare che si raffreddino e spezzettarle nella ciotola dei nostri animali. Benissimo. Senti, ma tu quando hai parlato di polpette, dici, finalmente prendiamo le polpette, Rosetta ha fatto il gesto di lanciarle, cioè voleva prendere una polpetta e lanciarmela in fronte. Senti, allora, io adoro le polpette, quindi in casa mia non mancano mai, non sono un modo per riciclare esclusivamente, diciamo, gli alimenti, ma per me sono un vero e proprio piatto forte, non mancano mai. Anche per me, capito Rosita? Anche per me sono un piatto forte. Anche per me sono un piatto forte, capito Vaira? Che cacchio, che qui si deve cucinare un po' per ciascuno, invece cucino solo io. Comunque Mara, quando vuoi venire a usare la nostra cucina sei la benvenuta. Ma tanto io e Mara adesso faremo dei piatti assieme, caro mio, quindi ti sorprenderò con effetti speciali. Una volta che li avrò imparati direttamente con lei, ha da vedere le polpette che ti tiro dietro. Senti, ma sbaglio o in questa ricetta mi è sembrato, poi correggimi se sbaglio, c'erano poche proteine? Assolutamente no, perché il miglio è un cereale integrale, tutti i semi integrali contengono proteine nella parte esterna, diciamo nel tegumento esterno e nel germe interno. Poi i semi di zucca e girasole contengono proteine, tutte le verdure contengono proteine. Quello che ci tengo, diciamo, sempre a dire è che se abbiamo un'alimentazione che è non è monotona, quindi non dobbiamo cadere nella monotonia alimentare, che è quello che fa ammalare esseri umani e animali. Se studiamo con attenzione un piano alimentare che comprenda 7 categorie di ingredienti, che sono le mie famose 7 note. Sentiamo, ripassiamo. Queste 7 note sono cereali. Cioè, capisci quanto è attenta Rosita, no? Cioè, tu immagina di essere in classe con un professore. Questa è quella che con la Bic spara le palline di carta sulla nuca dei compagni di classe. No, avevo direttamente la cerbottana con i bussolotti, bello mio. Allora, i sette elementi che non devono mai mancare nella cucina. I sette elementi che non devono mai mancare nella nostra alimentazione vegetale sono i cereali integrali, i legumi, la frutta e la verdura di stagione, i semi e la frutta secca, i condimenti di buona qualità. I semi e la frutta secca li mettiamo in una categoria insieme, i condimenti di buona qualità che sono l'olio extravergine d'oliva, il sale marino integrale e gli alimenti fermentati, quei famosi alimenti fermentati che nella nostra cultura occidentale sono ad esempio le olive, le giardiniere, le verdure diciamo che le nostre nonne facevano per conservarle per l'inverno e ad esempio i crauti che vengono utilizzati nel nord Europa. Buoni! Mara, tutta sta roba ce l'ho io. No, io Angelo adesso a parte ce l'ha, ma non la cucina, ma, soltanto ma che cafone, ma guarda, la compra, ma io ti rispedisco al mittente, sai, ma direttamente a Bari, poi no, noi nella zona della va del bene, Bergamasco. Andiamo a Bari. Guarda che sono stufa, ecco. Guarda che non ne posso più, mi spiace Mara di coinvolgerti in questa faida familiare. No Mara, guarda, allora adesso facciamo una cosa, io voglio fare una roba, forse ce l'eravamo detti anche l'anno scorso, fare una cena, vieni a casa mia, invitiamo tutti i miei amici antipatici che mi rompono gli squaraus perché dicono: e dove prendi le proteine se non mangi la carne? Perché io sono 4 anni che sono diventata vegetariana. E dove le prendi quella? Dove le prendi quella? Non gli diciamo niente. Tu sei un'amica, senza dire che sai cucinare. Facciamo tutta una cenetta così e vediamo. E li riprendo mentre fanno le loro facce. Li stendiamo. L'unico modo è far assaggiare ciò che perché è inutile parlare, bisogna mangiare. A noi italiani piace mangiare bene, è giusto che sia così. Io conquisto tutti così a tavola, brava, prendo tutti così bene. Grazie Mara di questa nuova ricetta che faremo grazie presto. Grazie a voi, volevo semplicemente concludere con questa suggestione. Mm-hmm. Sì. Le sette categorie di alimenti sono come le sette note, quindi noi possiamo cucinare ricette infinite con combinazioni infinite, mm-hmm, come tutta la musica del mondo. Bella, ma che poetica. Concordo. This is a suggestion. Grazie Mara di noi. Grazie a voi, alla prossima. Grazie, ciao. Ciao, ciao, buona giornata. Ciao, un abbraccio. Oh, e anche questa domenica è volata. Mannaggia, siamo praticamente alle battute finali. Che visto che è bell'inglese che parlo io. This is the gestion. Beh, ormai oggi è noto, no? Sì, esatto. Dopo aver intervistato Chris, dopo questo mio intervento. È così, ecco. Allora, ragazzi, ricordatevi di scriverci, ragazzi, ragazze, adulti, piccoli, bambini e anziani. A chiedimi se sono felice, @radio24.it. Se volete riascoltare questa o altre puntate, soprattutto per le ricette di Mara, insomma, ci sono non i nostri, solo anche per tutte le persone che abbiamo intervistato inerenti a qualunque argomento vi può interessare, dalla vivisezione all'abbandono, ci sono i podcast. I podcast sul sito di Radio 24. Ricordatevi sempre il punto di vista della cimice e il motivo della loro esistenza. Se non lo sapete, ascoltatevi la nostra puntata precedente. Ciao a tutti da Angelo Vaira e Rosita Celentano, buona domenica. Ciao. Ciao.